cosa lei che io non ho, che cosa più di me. Sto cercando una ragione, anche se alle volte sai, non c'è. Ero qui, eri qui, ma poi non è andata, sai, proprio così. E una vita sola non può bastare per dimenticare una storia che vale. Nei tuoi occhi che mi stanno a guardare, non dimenticare. È difficile per me imparare a vivere senza abbandonarmi al mio presente, inaspettatamente senza te. Ecco qui, eri qui. Parlarne adesso non ha più senso, o forse sì.